venerdì, annuncia mobilà, perturbazioni. Venerdì sulle cose di Bari, gran cavalloni. Alla sera sui denti la torri, moschi arancioni. Che si accendono come semafori delle stazioni. 36 gradi d'umidità, ecco la testa del frigobar. Lì per lì vedo il cielo coperto di nuvoloni. Vedo lì ciò che scuote la cenere dei mozziconi. 30 gocce di nettare in acqua, apro i polmoni. Più confuse e felici come mucconi. Mucci. Frigo.